La manifestazione l'abbiamo chiamata soprattutto per far venire fuori tutte le problematiche di cui nessuno parla, che riguarda i ragazzi che sono arrivati qua con i barconi. Già hanno subito soprusi, hanno subito di tutto nel loro paese. In Libia hanno subito di tutto, hanno affrontato il mare pensando di trovare una bella accoglienza qua in Italia. In Europa hanno trovato una gestione delle cooperative, delle prefetture disastrose. Adesso ci stiamo accorgendo che questi ragazzi qua stanno finendo per strada, nei giardini, davanti ai supermercati a chiedere le elemosine, perché è una gestione che è stata sempre fatta male. In più, ultimamente è arrivato il decreto di sicurezza di Salvini, che è venuto a peggiorare la situazione, facendo più dinieghi davanti alle commissioni quando loro vanno a chiedere i documenti. E abbiamo trovato le cooperative che si sono ritrovati disarmati davanti anche alle situazioni, perché li hanno mandati via tutti e stanno uccidendo tutti i centri di accoglienza, buttando fuori i migranti per la strada. E questo non può essere una cosa accettabile, per cui noi abbiamo chiamato migranti e non in piazza sabato per dire no a queste cose qua, per affrontare le questure, prefetture e alta voce dirgli che noi non siamo d'accordo, bisogna rivedere le cose, fare un'accoglienza fatta per bene, dove le persone possono avere i documenti, rifarsi la vita, trovare un lavoro, poterci curare quando sono malati e poter accedere a tutte le cose che può dare la possibilità a una persona di vivere tranquillamente. Ecco, almeno a parole anche il sindaco Virginio Merola, siamo davanti ora a Palazzo d'Accurzio, dice che bisogna opporsi al decreto Salvini e fare un'accoglienza degna. Voi però criticavate il fatto che avrebbe i mezzi per farlo con l'iscrizione all'anagrafe e di fatto non lo fa. Sì, perché noi abbiamo visto già dei casi di questi ragazzi qua che sono venuti a chiedere la residenza, che gli hanno negato la residenza, e questo il comune poteva evitare di farla. Quando parla di accoglienza, che è una città accogliente, che fa delle cose per accogliere i migranti, la prima cosa, che si tratta di vera accoglienza, e dargli la possibilità, come fanno altre città, perché le stanno facendo, di dare la residenza a questi ragazzi qua. Già questi casi qua cercheremo noi di farla risalire, di farla capire che non si tratta solo di dire accoglienza a parole, però nei fatti bisogna anche farlo. E un altro tema emerso più volte invece è anche quello poi dello sfruttamento nel campo del lavoro. Sì, lo sfruttamento nel campo del lavoro, perché i ragazzi sono nuovi, un sacco di diritti sul loro lavoro non lo sanno, e le cooperative ne approfittano, perché c'era uno rappresentante dei COBAS che si diceva che adesso stanno prendendo quei ragazzi lì nei campi dove sono per rimpiazzare i lavoratori quando fanno sciopero, pagandoli poco. E questa cosa qua è una cosa che tutti noi dobbiamo difendere, i diritti dei lavoratori, perché se questa cosa qua passa sarà una cosa che danneggerà tutti. A proposito di questo, ci sarà proprio a Modena, dove appunto ci sono state molte lotte di recente anche con i Sicobas e con il caso di Rita Albizza in particolare, ci sarà un presidio anche a Modena in contemporanea con la vostra manifestazione? Ci sarà, perché loro i giorni sono concisi, il 6, però volevamo essere là e qua. È una cosa che secondo me riguarda tutti, per cui speriamo di poter fare dei collegamenti tra queste due presidi e manifestazioni per dare manforte a tutto quello che stiamo facendo all'insieme delle cose.